Si recuperano i piatti, diciamo, dalle biografie dei libri. Ora, questo può essere una cosa un po' contrastante. Quando si legge un libro di cucina si va a vedere la biografia. Dalla biografia si va a vedere quello che l'autore ha usato per scrivere quel libro e si fa un percorso a ritroso, andando a ricercare anche i libri vecchi, solitamente in biblioteca o in qualche libreria con libri usati. È un percorso a ritroso dalle biografie dei libri. Ma pensate, vabbè, chissà dove saranno i ragazzi! Francesco, sai dove è finita la padella di rame? Non saprei, sono qui a preparare il tagliere. Cercala! Ci penso io! L'ultima volta vostra mamma la teneva qua! Giorgio, ma che disastro hai combinato? Hai rotto almeno un paio di servizi. La mamma e il babbo non faranno salti di gioia. Avranno meno roba da attirarsi nel caso litigassero come nei film. Comunque, ho trovato la padella. Che cucinate di bello? Questo è il punto. Non sappiamo che cosa preparare per stasera. Siamo a corto di idee. Forse abbiamo il blocco dello chef. Tranquilli. Oggi sono stato dal dottore per farmi prescrivere una medicina e lui mi ha fatto la ricetta. Guarda che non siamo alla mensa dell'ospedale, Ma lo so! Solo che quando sono uscito dal medico e sono andato in farmacia era tardi e l'ho trovata chiusa. Adesso capiamo. Insomma, non hai preso la tua pillolina. Tra un po' ci toccherà metterti la camicia di forza. Ah no, io non mi metto la cravatta per forza. La camicia io la porto alla James Dean. Gioventù bruciata, infatti. Oppure come nel titolo originale del film, Rebel Without a Cause, cioè ribelle senza causa. Infatti la tua è una causa persa. Ma insomma, mi lasciate finire! Siccome la farmacia era chiusa, sono entrato nella libreria lì accanto e al commesso gli ho detto che volevo una ricetta. E lui, invece di darmene una sola, me ne ha date tante, tantissime, e mi ha venduto questo libro! Fammi indovinare, un libro di ricette? Esatto! Eccolo qua! Pesce e verdure, di Fabbri Editori. È del 2005. In effetti le immagini sono molto belle. Pesce e verdure hai detto? Proprio quello che abbiamo in frigo. Dai, scegliamo qualche ricetta. Per esempio questa, impepata di cozze. Sì, le abbiamo comprate fresche stamattina. Guarda che stiamo a 200 km dal mare. Queste fresche lo erano forse qualche mese fa. Le cozze non saranno fresche, ma il tuo cervello è proprio marcio. Allora, ingredienti per 4 persone. 40 cozze, 2 limoni, un mazzetto di prezzemolo, sale, pepe nero in grani. Mondate il prezzemolo e tritatelo finamente. Raschiate le cozze con l'apposita spazzolina sotto l'acqua corrente e riasciugatele accuratamente. Scartate le conchiglie non perfettamente chiuse. Poi ponete le altre in un tegame, copritele e fatele aprire a fuoco vivo. Eliminate le cozze chiuse, filtrate il liquido di cottura e tenetelo da parte. Trasferite i molluschi insieme con il liquido di cottura in un ampio tegame. Spruzzate con il succo di un limone, salate e pepate. Pepate abbondantemente. Rimettetele sul fuoco e cuocete ancora per 3-4 minuti. E scuotete il tegame di tanto in tanto. Servite in tavola direttamente nel tegame. cucinate da voi, così come minimo mi prende il colera. Aspetta, aspetta, che c'è scritto qui? Il vino. Ah, finalmente si ragiona. Accompagnate con un greco di tufo, ottimo avellinese, prodotto all'85% da uve greco e per la parte rimanente da uve volpe. Ma che è? Una cantina o un orso? Dammi qua che ti trovo io un secondo. Ho trovato trote alle noci. Allora, ingredienti per due persone. Due trote da 250 grammi. 20 grammi di noci, farina, mezzo bicchierino di rum. Questa ricetta mi piace più dell'altra. E fammi finire, briaco! Dov'ero rimasto? Ah, sì, 10 grammi di burro. E poi sale e pepe. Dunque, pulite le trote, sciacquatele sotto l'acqua corrente e poi asciugatele con carta assorbente. Salatele e pepatele nella parte interna, infarinatele ed eliminate la farina in eccesso. In una larga padella sciogliete 80 g di burro e poi friggeteci le trote, ricordando di girarle a metà cottura con una paletta. Tiratele fuori dalla padella con un mestolo bucato, c'è una schiumarola, e fatele scolare su carta assorbente. Aggiungete al fondo di cottura il burro rimasto e le noci. Noci tritate naturalmente. Bagnate con il rum e fatele sfumare a fuoco vivo. Versate la salsa sul pesce e servite in tavola molto caldo. Dammi qua, fammi dare un'occhiata. Hai detto che servivano per gli ingredienti 10 grammi di burro e ora mi vieni a dire che ne serve 80 per fare la prima cottura delle trote e poi quello che rimane per fare la salsa. Senz'altro hai fatto un errore. Ah, hai sbagliato a fare le sottrazioni. Zitto asino, c'è un errore di stampa nel libro, controlla. Probabilmente a quel 10 manca uno zero. 100 grammi di burro, 80 per le trote e 20 per la salsa. Ma queste, più che trote alle noci, mi sembra un pasticcio di trote. Comunque, vediamo che vino suggerisce. Servite con un Arneis della Val d'Aosta. La Val d'Aosta, ma che, ci cresce la vite? Io credevo che ci stessero gli stambecchi e le stelle alpine. E di contorno che facciamo? Diamo un'occhiata. Francesco, senti qua. Bocconcini fritti di patate e ortiche. Ortiche? Ma voi vi siete impazziti? Quelle pizzicano, si mettono in bocca e ci viene la bocca tutta pustolosa. Ma voi vi state scherzando? Qui, ho capito, voi state tentando di avvelenarmi. Il fatto è che te, alle ortiche, ci hai buttato il cervello. Ingredienti per 4 persone. 450 g di foglie di ortica, 300 g di patate, 3 uova, 100 g di farina di tipo 00, uno spicchio d'aglio, 2 cucchiai di grana grattugiato, noce moscata, olio di semi di arachidi per friggere, sale e pepe. Pulite e lavate le ortiche e lessatele in abbondante acqua salata per circa 10 minuti. Scolatele e tritatele finemente. Lessate e pelate le patate. Con la terra o senza? Ma dai, prima si pelano e poi si lessano. C'è scritto così? Insomma, passate le patate allo schiacciapatate e ottenete un purè. Aggiungete le ortiche, 2 uova intere e un tuorlo, il grana, l'aglio tritato, più un pizzico di noce moscata. Salate, pepate e amalgamate bene il composto. Nel frattempo metto le patate. Francesco, continua tu. Dove sei rimasto? Ah, qui. In una padella scaldate l'olio per friggere. Con il composto formate delle polpettine, che siano della grandezza di un'albicocca. Passatele nella farina e friggetele. Servitele caldissime. Ma le ortiche ve le mangiate voi, ma il vino me lo bevo io. Vediamo, vediamo. Accompagnate con un esino bianco fermo, DOC, prodotto in tutta la provincia di Ancona e nella zona settentrionale del Maceratese con il 50% di uve verdicchio. A proposito di verdicchio, chi sarebbe che va a prendere le ortiche? Io no, sto pelando le patate. Io sto pulendo il pesce. Insomma, ho capito, ci vado io. E dove sarebbero queste ortiche? Ma qui sotto, lì davanti a casa. Sono proprio sotto la nostra finestra. Ai, ah, ai, ah, la buca, ai, aiuto. Giorgio, basta, ne hai raccolta abbastanza, torna su. Non mi sento affatto bene. Giorgio, hai una brutta cera, ma che ti succede? Mi sa che hai proprio bisogno di tornare in farmacia. No, no, tranquilli, non è neanche l'ortica, non è niente. È che voi a parlare di tutto questo cibo, mi avete fatto venire l'indigestione. No, no, il fatto è che tu a parlare di tutti quei vini ti sei ubriacato. Ghiozzo vero al vino immaginario. Ecco cosa c'è stasera per cena. Una vera prelibatezza. Francesco, dov'è il telefono?